Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. Abbiamo avuto lo speciale sulle Olimpiadi Invernali di Sochi, quindi partiamo con un leggero ritardo. I temi di questa giornata economico-finanziaria, il tema più grosso oggi devo dire che riguarda l'Europa e soprattutto quanto deciso dalla Corte Costituzionale tedesca di Karlsruhe. Ora potrebbe sembrare una cosa un po' tecnica, ma non è così. Ricorderete che vi fu un processo sostanzialmente la Banca Centrale Europea fatto dalla Corte Costituzionale tedesca, e quindi l'oggetto vero era la legittimità del piano OMT, il piano di acquisto e quindi di aiuto della Banca Centrale Europea, piano di acquisto dei titoli di Stato da parte della BCE per i paesi in grave difficoltà, quando non è questo il periodo, gli spread erano elevatissimi e se dovessero tornare a essere molto elevati. Lo dico nel giorno in cui in realtà lo spread italiano, e questa è una buona notizia, partiamo anche da questa, lo spread italiano è arrivato a 200 punti, il BTP a 10 anni è ai minimi dal 2006, il rendimento è sotto il 3,70%, non succedeva da 8 anni, una buona notizia perché vuol dire che ci costa meno finanziare il nostro debito, e appunto la differenza con il rendimento del Bund tedesco è scesa a 200 punti quasi, quindi sono il 2% di differenza. Il mercato infatti guarda anche con favore la sentenza della Corte Costituzionale tedesca, che rimette alla Corte di Giustizia Europea la legittimità del programma di salvataggio OMT. Secondo i giudici della Corte Costituzionale tedesca, il piano di aiuti della Banca Centrale Europea va a violare il mandato della Banca Centrale Europea, ma considera anche possibile che, se fosse interpretato in modo restrittivo, potrebbe essere conforme alla legge. La Corte Costituzionale tedesca ha anche aggiunto che la Banca Centrale Europea non è autorizzata a perseguire una propria politica economica e può soltanto supportare le politiche economiche dell'Unione. Sostanzialmente è una decisione un po' pilatesca, perché da un lato viene contestata la costituzionalità degli aiuti e si dice che l'intervento può scattare solo dopo una richiesta di aiuto all'autorità europea degli strumenti finanziari da parte di un governo. Il piano non è mai stato utilizzato e, a mio avviso, se vogliamo andare oltre l'interpretazione della Corte Costituzionale tedesca, dimostra anche una pretestuosità e un certo atteggiamento, cioè non è mai stato utilizzato. Speriamo che non venga mai utilizzato, e cioè che gli spread non tornino ai livelli che abbiamo visto a fine 2011 e inizio 2012. Definire insomma il mandato essere così pignoli quando il problema mi sembra un altro, cioè, da un punto di vista anche dell'immagine, chiaramente fa e rischia di attirare sulla Germania l'ennesima critica di essere molto rigida nell'applicazione dei trattati e non pensare ad altro che all'applicazione rigorosa di una banca centrale che non può far altro che toccare, abbassare o alzare i tassi di interesse, non può stampare moneta, non può nemmeno aiutare autonomamente gli stati in difficoltà, e quindi tutto va bene secondo la Germania, anche se l'Europa, faccio notare, l'area euro è quella che ancora ha la ripresa più debole o inesistente, con un rischio deflazione, e da un punto di vista politico tutto questo atteggiamento è benzina sul fuoco degli anti-europeisti, che poi diventano spesso anti-euro confondendolo, dico spessissimo, il termometro con l'influenza, con la febbre. Non è colpa dell'euro, è colpa di questa gestione dei parametri europei e anche del rigore europeo, dell'austerità, solo austerità europea. Ma tant'è, ne parleremo nella seconda ora del programma. In apertura invece ci occuperemo delle imprese italiane, perché domani vi sarà una manifestazione a Pordenone con il titolo Salviamo l'Italia. In realtà il mondo delle imprese del nord-est è in fibrillazione anche e soprattutto per i costi impropri che le imprese devono subire, a partire dal costo dell'energia. E qui ci sono dati per cui lamentano gli industriali stessi di Padova, ma anche di Treviso e di Verona, costi di energia e bollette aumentate del 30% in un anno. Il presidente degli industriali di Padova, Pavin, fa notare che lui pagava come industriale 2 milioni di bolletta elettrica, adesso siamo a 2 milioni e 800 mila euro. E insomma, questo è un tema, mi rendo conto, non così alto come la riforma elettorale, come la staffetta non staffetta Letta Renzi, ma è uno di quei temi che purtroppo segnano la differenza per le nostre imprese e segnano la differenza per chi ci lavora. Noi siamo un po' più prosaici di altri temi molto alti che vedo toccare in questi giorni. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook e le altre notizie in breve. Sì, ha ragione chi scrive che c'è una parte positiva della sentenza, pensavo di averlo fatto capire, chiedo venia, quando la Corte Costituzionale tedesca comunque rimanda al giudizio europeo. Perché è positiva questa cosa? Perché un elemento peggiore, a mio avviso, sarebbe stato se fosse arrivata una sentenza negativa e basta, un giudizio negativo e basta. Invece dice, ecco perché ho detto in maniera un po' pilatesca la Ponzio Pilato, critica la BCE ma rimette al giudizio della Corte, si rimette al giudizio della Corte Europea di Giustizia, in modo insomma da passare il cerino, la patata bollente alla Corte Europea di Giustizia, riconoscendo che su questo c'è un'autorità sovranazionale, appunto la Corte Europea di Giustizia, e dando anche l'impressione di non considerare diciamo la Germania così egemone nella gestione dell'Europa. Ma vi arriveremo, vi arriveremo. La borsa più 0,80% per quello che riguarda Milano, più 0,90% Parigi, più 0,40% Francoforte, più 0,17% Londra. Bene oggi Mediolanum più 4,60%, Buzzi Unice più 4,30%, Unicredit più 3,5%, Mediaset più 3, Telecom più 2,60%, Enel più 1,90%, Azimut più 1,5%, Generali più 1,20%, Enel Green Power più 1,1% come la Popolare di Milano. Cali contenuti oggi a Milano: TOZ meno 2% come Saipem, Monte dei Paschi meno 1,40%, Exor meno 1,20%, Autogrill meno 0,70%. Purtroppo oggi torneremo anche con la rubrica sugli sprechi del denaro pubblico a qualunque livello, comunale, regionale, nazionale e anche delle società partecipate dallo Stato. Si è dimesso Saggese, lo dico subito, però insomma, il problema sarebbe bello capire anche come la politica è riuscita a trasformare un fiore all'occhiello italiano, l'Agenzia Spaziale Italiana, che aveva e vantava, adesso non posso ripercorrere l'intera storia, ma vantava record su record, era una delle agenzie spaziali più forti al mondo. Perché dico la politica? Perché giustamente la politica ha il diritto, il governo ha il diritto di cambiare i vertici dell'Agenzia Spaziale Italiana. C'era Giovanni Bignami ai vertici una volta, cambiato poi dal governo Berlusconi, se non ricordo male, con Saggese. Tutto bene, nel senso che la politica ha il compito di indirizzo, non ci trovo nulla di strano. Bisogna capire poi in base a che cosa mette certe persone. Si disse l'Agenzia Spaziale Italiana deve fare meno ricerca, deve fare più contratti, essere più sul mercato, va bene. Non mi sembra che le cose che racconterò vadano in questa direzione, cioè il mercato è solo per chi ci lavorava. E però attenzione, perché poi non è il tema, non è che la politica scelga, ma è come la politica sceglie. Non ho niente in contrario, come avviene anche in tanti altri paesi, che il governo metta i suoi uomini e ci sia anche uno spoil system. Per me è la selezione. In altri paesi sono più seri, non vanno a vedere solo se sei amico di vicino a affiliato con, ok? Allora, dicevamo le altre notizie al di là dello spread. C'è oggi un buon commento da parte della Germania, mi riferisco al ministro degli esteri che ha incontrato alla Farnesina, il ministro degli esteri tedesco, Frank-Walter Steinmeier, che ha incontrato oggi alla Farnesina il ministro degli esteri italiano Emma Bonino. Ha detto: siamo felici per i progressi, per i passi politici intrapresi dall'Italia sulla via delle riforme e il miglioramento della situazione economica, soprattutto per quanto riguarda lo stock del debito. diciamo solamente, forse, sullo stock del debito, perché se a qualunque italiano chiedete se è migliorata la situazione economica, solo un tedesco può pensare che qua sia migliorata la situazione economica. Però se tu guardi il deficit e il debito, se è l'unico modo per cui vivi, l'unica cosa a cui pensi la mattina quando ti alzi, a mezzogiorno quando vai a pranzo, la sera quando vai a dormire, e il deficit al 3%, e vabbè, allora certo che puoi essere contento. E poi ha detto la Germania si opporrà a chi vuole distruggere l'Europa. Cioè, mi fate fare la battuta, si oppone a se stessa. Che con queste politiche miopi, cieche, di austerità fine a se stessa, che stanno creando il malcontento e alimentando la pancia, perché quando la pancia è vuota è difficile far ragionare anche le persone, ok? È inutile che la Germania si opporrà. E cosa fai? Cosa fai per opporti? E poi così ha risposto ricordando il ministro degli esteri, ricordando certi toni antitedeschi nella politica italiana. Ma va, prendiamo sul serio questa questione, perché in diversi paesi ci sono toni anti-europei. Per noi non ci sarà un buon futuro se distruggeremo l'Europa. Per noi vuol dire la Germania, vuol dire per noi europei, perché la Germania ha avuto grossi vantaggi da questa gestione dell'Europa, Steinmeier, un po' di autocritica nella vita, Andiamo avanti, dai, che è meglio. Allora, dagli Stati Uniti, la disoccupazione invece lì, dove hanno scelto un'altra strada rispetto a quella tedesca, per l'Europa, non per se stessa. Che poi lo ricordiamo spesso, insomma, la Germania, quando c'è stato da salvare le sue banche del territorio, le Landesbank, le ha salvate, altro che rigore, e con Deutsche Bank siamo sullo stesso livello. Lì il rigore non era importante, vero? La disoccupazione in America al 6,6% ai minimi da 5 anni. Sarà un caso che abbiano adottato una linea completamente diversa dalla nostra. I posti di lavoro sono cresciuti di 113.000 unità a gennaio. È cresciuta leggermente meno del previsto, ma qui c'è un dato meteorologico, stando a quello che battono le agenzie americane, perché è legato all'ondata di maltempo che ormai da settimane martella gli Stati Uniti. È una posizione ribadita anche dal presidente della Federal Reserve di Dallas, Richard Fisher. E a proposito di Germania, dei vantaggi, dico, questa Europa in realtà, la Germania va benissimo, nuovo surplus commerciale a record nel 2013, la differenza tra quanto la Germania ha esportato e importato sale a 199 miliardi di euro, nonostante il calo dell'export, e quindi è inutile illudersi, questo lo dico, che i tedeschi si mettano a spendere di più perché sono più ricchi, cioè questa vulgata in Europa, bisogna convincere la Germania a consumare anche, visto che sta traendo tutti i vantaggi da questa posizione in Europa. Ma cosa fai, li obblighi a consumare? Ma non è che puoi obbligare un cittadino a consumare, onestamente, se non vuole. Se vuole usare i soldi in altro modo, se vuole spenderli per le vacanze fuori dall'Europa, non è che lo puoi obbligare a comprare i prodotti spagnoli, italiani, la manifattura italiana, il cibo italiano. C'è invece a sorpresa un calo nella produzione industriale tedesca dello 0,6% a dicembre. Gli analisti si aspettavano un rialzo dello 0,3%. Invece, venendo all'Italia, al di là della buona notizia sul BTP, abbiamo la Confcommercio che, con l'indice del disagio sociale che si chiama Misery Index, che già dice tutta nel nome, beh, il disagio sociale è ai massimi da sempre, è salito a 21,6 punti da quando esiste quest'indice. E invece sulla politica industriale del paese, il ministro Zanonato ha detto una cosa, cioè meglio, riferendosi a un insieme di notizie, ma soprattutto alla Fiat, meglio la sede altrove che un lento declino, l'importante è che si continui a produrre in Italia. Se l'alternativa era quella di un lento declino della Fiat, mi pare che è meglio quello che abbiamo visto accadere. Quali sono le cose importanti? Primo, che si continui a produrre in Italia. La Maserati è interamente prodotta in Italia. Sotto a vedere la fabbrica, una fabbrica altamente automatizzata, ci sono dei robot fantastici, sono 1000 dipendenti che lavorano, pagheranno le tasse, non pagheranno le tasse in Italia. Alcune tasse si pagano in Italia per qualsiasi... La Electrolux, dove ha le sue sedi, non è un'azienda prevalentemente svedese. Chi pone il problema che non deve essere svedese? Nessuno. Allora, ha senso che la Fiat riesca a radicarsi in Italia e in altri mercati, per esempio fortissima in America Latina, anche attraverso operazioni di questo tipo. L'alternativa non è che tutto quello di bello che abbiamo visto sarebbe rimasto in Italia. Ricerca in Italia, produzione in Italia, ingegneri italiani, pagare le tasse per la produzione in Italia, sono gli elementi di un marchio che rimane nella sostanza un marchio legato all'italianità. Io devo dire una cosa, invidio molto le sicurezze che ha il ministro Zanonato. Le aveva quando disse, l'abbiamo fatto ascoltare molte volte, che il fatto che gli spagnoli avessero acquisito il controllo di Telco, che controlla Telecom Italia, non voleva dire che Telecom Italia fosse spagnola. Abbiamo visto infatti come è andata a finire. Le ha avute nella vicenda Electrolux, dicendo subito all'inizio no, nulla si sposta, ma adesso siamo appunto alle trattative. E le ha anche nel caso Fiat. Anche noi siamo d'accordo che più che la sede legale è quella fiscale, perché è un diritto, non viene violata nessuna legge spostarsi dove le tasse ti costano meno, l'importante sia la produzione. Però io mi fido del ministro, ma vorrei che lui parlasse con Sergio Marchionne, avessero un incontro, venisse ribadito una volta per tutte l'investimento Fiat in Italia, che è cambiato molte volte in questi anni, ricordate il piano Fabbrica Italia, e dopodiché va a dire queste cose, perché io non capisco, ma nella mia somma ignoranza, come faccio a essere così sicuro? Dice, a dire, l'importante è che appunto qui sarebbe successo comunque, mica potevamo aspettarci che la Fiat tenesse tutto quanto in Italia, adesso comunque l'importante è che producano qui. Ma è sicuro? Perché il suo equivalente, il suo omologo francese, dubito che avrebbe parlato in questo modo su quello importante che resti qua la produzione. Avrebbe convocato la Fiat, guardate il caso Peugeot Citroën, si sarebbe fatto dare garanzie nero su bianco e poi avrebbe fatto le dichiarazioni. Io veramente invidio le sicurezze del ministro Zanonato. Quel che è certo è che il marchio Ferrari non si sposta in Olanda, resta Maranello, ha replicato oggi la Ferrari in una nota ad alcune indiscrezioni di stampa, ma è anche certo che un altro marchio italiano in parte, piccola parte, se ne va. Dopo Poltrona Frau, la Nazareno Gabrielli, che è controllata in realtà dal gruppo Leitberg, ma va per il 28% a un gruppo libanese, e va bene. C'è una notizia buona sui passeggeri di Alitalia, che sono un po' aumentati a gennaio dello 0,5%, e in crescita anche il tasso di riempimento degli aeromobili dell'1,6% al 69%. C'è una brutta notizia invece su quello che riguarda il finto Made in Italy, invece di stare a rompere le scatole su da dove arrivano le mucche e i maiali, l'abbiamo detto più volte quando ci fu quella polemica assurda, a mio avviso assurda, dovremmo combattere di più il finto Made in Italy, non il fatto che diciamo il maiale non sia o la mucca non sia sempre italiana. Perché lo dico? Perché noi perdiamo 60 miliardi di euro di fatturato, ora non è che possiamo combatterlo tutto, ma una parte sì. Lo studio l'ha fatto la Coldiretti, lo ha presentato oggi la Fiera Agricola di Verona. Tra i casi più eclatanti e curiosi di cibi italiani contraffatti ci sono il pandoro argentino, ho capito che è pieno di veneti lì, però insomma pandoro argentino, il salame veneto made in Canada e vai, l'asiago statunitense, il cresecco, che dovrebbe essere un prosecco però con la K si scrive e indovinate un po' è tedesco. La denominazione più colpita è quella del parmigiano reggiano, Il parmesan è diffuso in tutti i continenti, Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone. C'è anche il parmesao in Brasile, il reggianito in Argentina, il reggiano e parmesao in tutto Sud America, ma anche il parmesello in Belgio. Ma addirittura adesso vendono anche in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, in Australia, un kit per fare il pregiato formaggio italiano. Naturalmente il latte utilizzato non è importante. La truffa colpisce anche i vini italiani. Pensate che il Valpolicella può essere taroccato con un miracoloso kit che promette di ottenerlo in pochi giorni con miscugli di polveri e mosto. Auguri a chi se lo beve, almeno quello posso dirlo. Nel frattempo l'ASI, vi arriviamo dopo il meteo e la pubblicità, l'Agenzia Spaziale Italiana, alcuni dicono è un carrozzone che serve solo a piazzare i politici trombati, gli amici dei politici. No, l'Agenzia Spaziale Italiana, permettetemi di sentire, ha avuto un grosso ruolo, lo dico perché per testimonianza diretta, ed era una delle più prestigiose, spero che lo sia rimasta, a livello mondiale. Certo, aver speso i soldi, come poi racconteremo, non aiuta, no? Perché insomma, quando tu riesci a spendere 1 milione di euro per portare 33 persone in California ad assistere al lancio di un satellite, ti chiedi se fossero dentro il satellite o fuori dal satellite, vista la spesa. Poi ci arriviamo. Però Saggese, il presidente Enrico Saggese, ha messo a disposizione il suo mandato, chiaramente parte l'inchiesta su questo, e quindi Saggese si è dimesso, mentre la Procura di Roma, lo ricordo, ha chiesto una condanna a 7 anni e mezzo di reclusione per l'ex tesoriere della Margherita Luigi Lusi, accusato di essersi imboscato oltre 25 milioni dei fondi destinati al partito. 349-238-6666 per i vostri sms, e poi la pagina di Focus Economia su Facebook, c'è la pubblicità, e poi vedo alcuni messaggi che mi fanno sorridere, e poi invece raccontiamo quest'Italia e altre amenità. In diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso parliamo dei problemi che hanno le imprese. C'è qualcuno che mi ha attaccato dicendo: lei definisce fuffa la riforma elettorale. No, ho detto solo che ci sono temi più alti, a parte che questa riforma elettorale è un piccolo problema, che devi riformare anche il Senato. Ma lasciamo stare, non entriamo nel dettaglio. Dico solo che vedo molte discussioni su temi molto alti, sui grillini, sulle offese, ci mancherebbe, sono tutto importante. Poi però noi ci confrontiamo tutti i giorni con i dati, con le difficoltà delle nostre imprese, al di là della schiarita che vedono solo alcuni. E adesso arriviamo anche ai costi che sostengono le imprese del Nord-Est sulla bolletta elettrica, che non è un dettaglio, però due o tre cose le devo dire anche a luce di questo. Il sindaco di Roma Marino mi può spiegare perché spende ogni anno più di 74 milioni di euro solo di affitti per case, alloggi ed uffici, nonostante sia proprietario di quasi 60.000 immobili, di cui 43.000 case popolari? Non voglio mandare via chi legittimamente occupa una casa popolare, ma ci mancherebbe. Però se tu hai 60.000 immobili, devi spendere 74 milioni di euro l'anno per gli uffici. Tra l'altro 21 milioni di questi 74 vanno a finire a privati. Ecco, forse che c'è qualche interesse, immobiliaristi e costruttori privati, da cui il comune affitta ulteriori 4.000 alloggi. Pensate che un migliaio di questi alloggi sono della mitica Angiola, penso, Armellini, mi frega un cavolo del nome, ma quello che è importante è che lei è accusata di non aver pagato l'ICI e l'IMU per 1.200 case con un'evasione di 2 miliardi di euro. Ma c'è anche la sorella Francesca Armellini, a cui il Comune di Roma versa ogni anno più di 9 milioni di euro per l'affitto di 388 case e vari stabili ad uso commerciale. Io una cosa però non la capisco: come fa il Comune di Roma a affittare 1.000 locali ad Armellini, che non ha mai dichiarato l'ICI e l'IMU? Che, ma io non riesco a capire questa cosa, ma un minimo di controllo incrociato. Chiunque di noi abbia dovuto pagare l'ICI o l'IMU sa benissimo che hai il commercialista, se ce l'hai, o comunque l'agenzia sotto il pianerottolo che ti aspetta. Questa c'ha 1.000 appartamenti che affitta al Comune di Roma, ma è riuscita a evadere l'IMU, gestione anche Alemanno precedentemente, non è che, però per il totale di 2 miliardi di euro. Certo, il Comune di Roma, stando a Roma, si ispira anche allo Stato centrale. Perché? Perché lo Stato italiano spende per i vari ministeri 730 milioni di euro l'anno per 8.652 contratti di affitto diffusi tra i vari ministeri. Il Ministero dell'Interno, che alla faccia che è il Ministero dell'Interno, continua a non pubblicare sul sito, nonostante la legge sulla trasparenza voluta da Mario Monti, le spese per affittare prefetture, stazioni di polizia e sedi di vigile del fuoco. Il Ministero del Lavoro spende 23 milioni di euro per 133 immobili. Il Ministero dell'Ambiente spende 13 milioni di euro per 34 locazioni passive. l'allocazione passiva cos'è? È una allocazione che non rompe, una allocazione molto timida. No, l'allocazione passiva, per esempio, ce n'è una nel centro di Roma che è concessa in comodato gratuito alla Regione Lazio come sede di rappresentanza. Se voi mi chiedete cosa vuol dire la sede della rappresentanza della Regione Lazio a Roma, io non ci arrivo. Ma e poi vabbè, c'è anche il Ministero delle Infrastrutture che pubblica anche i proprietari degli immobili che affitta. Alcuni di questi sono del fondo Idea Fimit, che è un immobiliare presieduta da Antonio Mastrapascio. E adesso veniamo alla mitica ASI, 1 milione di euro per un viaggio con 33 partecipanti in California. Te credo, e Saggese si dimette solo quando scoppia lo scandalo, per assistere al lancio di un satellite. Cioè, ma ce ne rendiamo conto? 16.000 euro per una consulenza di 6 mesi sul mobbing. Hanno speso 16.000 euro per fare una consulenza sul mobbing e lo stalking. Un ballerino di tango. Ce l'avevamo il tango, perché bisogna mettere il tango oggi. Fratello di una dipendente scelto come consulente per il mobbing. Non so, evidentemente per il passo doble, non ho capito cosa sia successo. Adesso è inquisito, chiaramente Saggese, per concussione, corruzione e truffa. Ma ci sono rapporti anche poco limpidi tra Saggese e alcune società. Ma va, la Get It Communication, di proprietà dei genitori del ballerino di tango. Ma che questa cosa del ballerino di tango mi mancava. Di proprietà dei genitori del ballerino di tango. Contestate a Saggese anche l'assunzione di amici e le autonomine. Lui infatti si è autonominato presidente della controllata CIRA e al suo stipendio da 80.000 euro l'anno, che era un po' poco, se ne sono aggiunti ulteriori 90.000. Anche la costruzione della nuova sede ASI di Roma, a Tor Vergata, i costi sono lievitati da 12 milioni a 84 milioni di euro. E poi ha accusato anche di aver fatto pressioni e poi aver dequalificato il dirigente tecnologo Roberto Borsa, che era intenzionato a denunciare le irregolarità di cui era venuto a conoscenza. Poi ho visto un'intervista oggi di Saggese che diceva sono solo cose interne. A Saggese, meno male che ti sei dimesso, va? Una buona notizia, prima di passare agli industriali, però, arriva da Montecorvino di Rovella, in provincia di Salerno, perché il sindaco, gli assessori e alcuni consiglieri comunali da qualche mese hanno deciso di non incassare indennità e gettoni di presenza, di indirizzarli a un fondo che finora ha raccolto 34.000 euro. La metà dei soldi servirà per iniziative legate alle fasce deboli e l'altra quota sarà destinata ai cittadini con difficoltà economiche sotto forma di assegni da 200 euro. Pensate se questa iniziativa venisse estesa a tutta Italia, ma non magari devi rinunciare a tutto, ma una parte. Pensate che come risalirebbe l'immagine della politica italiana, altro che accusare la stampa, i media, i complotti vari. E invece in Sicilia i deputati, vista la malparata in questi giorni del bilancio siciliano, la maggior parte dei deputati hanno già chiesto la liquidazione del TFR per poco più di un anno di legislatura. Questo perché la legge ha modificato il rapporto contrattuale e stabilisce un tempo massimo per la richiesta di 6 mesi. Presidente degli industriali di Treviso, Alessandro Verdanega, buonasera. Buonasera, dottor Barisone. L'ho fatto un po' attendere, così le aumenta la bile, dai. Ho ascoltato volentieri. Beh, volentieri. Volentieri. Ho ascoltato volentieri, se non altro perché... Volentieri mica tanto, È molto opportuna la denuncia degli sprechi, dei furti che vengono fatti nel nostro paese. Mi auguro che qualcuno ascolti e che possa intervenire per porre rimedio a queste situazioni che evidentemente incidono poi nel nostro paese, nelle nostre tasche, nell'andamento delle nostre imprese. Quindi sarebbe bello anche provare a immaginare l'individuazione di chi deve intervenire per porre rimedio a quanto... Poi noi i nomi e cognomi li facciamo. Io so qual è l'interesse occulto di chi lavora nel cosiddetto sottobosco della politica e della pubblica amministrazione, che noi ci stufiamo prima o poi e che tutto passi, no? Vada in cavalleria e che passi la nottata. Si sbaglia perché noi continueremo, non tutti i giorni, non è che possiamo... Però ciclicamente, come certe medicine, un paio di volte a settimana, dopo i pasti, ve le facciamo ascoltare, perché noi non molliamo su questo, anche se c'è chi mi dice siete populisti e quant'altro. Senta, dopo le informazioni sul traffico, io vorrei capire invece che cosa sta succedendo nel nord-est, perché il suo collega di Padova, presidente dell'industriale di Padova, Massimo Pavin, dice che ha speso come industriale di bolletta elettrica 2 milioni, pagava 2 anni fa, ora 2 milioni 800 mila. C'è una manifestazione che... a cui voi non partecipate, però sabato, domani, si terrà questa manifestazione proprio a Pordenone, salviamo l'Italia. Ma insomma c'è Maretta sopra tutte le piccole e medie imprenditori per i costi e gli oneri impropri. Dopo il traffico mi spiega in che termini e perché. I have a dream that one day on the red hills in Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Il sogno è facile oggi perché vorremmo non occuparci più di questi temi. L'ha fatto anche il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi due giorni fa. Ha detto in un convegno dell'accise sul costo dell'energia, insomma, le imprese sono frenate dal costo dell'energia. Ma mi dica una cosa, presidente degli industriali di Treviso Verdanega, ma questo malessere, poi c'è questa manifestazione, vabbè, ma insomma è pazzesco che il suo collega dica da 2 milioni ora pago 2 milioni 800 mila euro solo di bolletta elettrica in 2 anni. Sì, e la situazione paradossale è che se noi andiamo a guardare nell'ambito della bolletta elettrica la componente materia prima, riscontriamo che la componente materia prima addirittura è calata e siamo su livelli confrontabili rispetto ai nostri competitor. Il problema è, come lei giustamente ricorda spesso, che ci sono tutte le componenti fiscali e parafiscali che nel frattempo sono fortemente aumentate e che rappresentano la componente principale, e questo ha portato addirittura ad aumentare significativamente la bolletta elettrica, ed è questo che ci porta di un buon 40% a un livello superiore rispetto alla Germania piuttosto che ai paesi a noi vicini. Questo perché evidentemente la politica delle energie rinnovabili è stata scaricata sulle tariffe evidentemente energetiche, per cui noi oggi abbiamo che un terzo della nostra bolletta serve a finanziare l'energia fotovoltaica piuttosto che tutta la componente delle energie rinnovabili, cosa doverosa, diciamo. Sì, non è solo fotovoltaica, anche le assimilabili, lì potremmo andare a lungo sul tema. No, quello che è paradossale è che non solo non c'è nulla sul cuneo fiscale, cioè sulle tasse in busta paga, ma aumentano anche gli oneri. E lei ha ragione a dire, il petrolio e il gas, che si lega al prezzo del petrolio in maniera automatica, non sono a livelli massimi, quindi rispetto a anni fa il prezzo della materia prima è anche più basso, però in bolletta non si vede niente. Voi temete un po' queste manifestazioni, dicevo, c'è questa rete che si chiama Salviamo l'Italia, no? Domani a Pordenone organizza una manifestazione, cioè io penso che il compito vostro sia anche di tenere assieme varie istanze cercando di farle ragionare, però per farle ragionare occorrerà anche una controparte, quindi lo Stato che dia qualche segnale. Certo, vede, diciamo che gli obiettivi possono essere comuni, cioè chi non ha l'obiettivo di chiedere al Paese una discontinuità, un'azione, una politica industriale, una riduzione del peso dello Stato sulle famiglie piuttosto che sulle imprese, quindi gli obiettivi sono comuni, poi ci differenziamo per la strategia attraverso la quale cercare di conseguire gli obiettivi. Ecco, io credo che sia importante innanzitutto capire che occorre avere un interlocutore con il quale negoziare, discutere e negoziare la realizzazione degli obiettivi, perché occorre fare anche attenzione che una volta che tu muovi il sistema, crei la rottura, non gestisci più poi la situazione, quindi bisogna fare attenzione anche quando si promuovono iniziative molto dirompenti, perché questo evidentemente può avere un rischio anche in termini poi di tenuta dell'intero sistema. Però non c'è alcun dubbio che il Paese, che chi ha la responsabilità di guidare questo Paese deve in qualche modo intervenire e deve decidere nella direzione che da troppo tempo noi in qualche modo diciamo, quindi la questione fiscale, che non è solo nazionale ma è la pressione fiscale anche a livello locale, le regole del mercato del mercato del lavoro, il costo dell'energia di cui abbiamo già parlato, e vede, tutte le inefficienze del sistema noi le riscontriamo scaricarsi nei cittadini e nelle nostre imprese. Io mi sono permesso di fare recentemente un'analisi per capire bene come lo stato di salute del sistema della manifattura industriale trevigiana, e lì si vede chiaramente, andando a vedere i bilanci, si vede chiaramente qual è il peso degli oneri impropri di sistema e della fiscalità nei bilanci delle nostre imprese, perché in questi 5 anni noi riscontriamo una forte perdita di valore aggiunto prodotto. Nella provincia di Treviso la manifattura industriale, quindi sotto forma di industria, sotto forma di società di capitali, hanno perso in 5 anni 1 miliardo di euro di valore aggiunto, che è passato da 4 miliardi a 3 miliardi, e se poi alla fine andiamo a vedere come viene distribuito questo valore aggiunto, noi riscontriamo che rimangono a livello aggregato 60 milioni di utile di impresa, quindi 60 milioni di utile di impresa. Allora va da sé che questo è un elemento che deve far riflettere, perché 60 milioni su 3 miliardi è meno del 2%. E perché deve far riflettere? Deve far riflettere perché l'utile d'impresa è il presupposto fondamentale degli investimenti, i quali a loro volta sono il presupposto dell'occupazione, della crescita, della competitività, quindi della creazione di benessere e di lavoro. Quindi la classe dirigente di questo paese deve preoccuparsi di capire qual è lo stato di salute delle sue imprese, perché il lavoro dipende da queste, quindi se io non metto le imprese nella condizione di sopravvivere e di competere, ho l'impressione che il paese non abbia futuro. Avete appena ascoltato un disfattista. I have a dream that one day on the red hills in Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. No, l'ho chiamata lei si sente disfattista, Verdanica? No, non mi sento affatto disfattista, non mi ritrovo. Ha capito la battuta, perché... no? Perché il Premier Letta, cioè è una settimana che parliamo. Letta che accusa Squinzi, gli industriali, di essere disfattisti. Vabbè, ecco, questo è un bel esempio di disfattismo. Mi dica, guardate, che abbiamo 30 secondi. No, qui io sono convinto che qui ne veniamo fuori se tutti abbiamo la capacità di lavorare assieme sugli obiettivi, quindi dobbiamo avere la capacità di individuarli e di lavorare assieme senza spararsi uno addosso all'altro. Però davvero noi con grande... diciamo, ci mettiamo grande passione quando richiamiamo la centralità dell'impresa, perché siamo, non è solo una questione di difesa di parte, perché siamo associazione di rappresentanza degli imprenditori. Noi davvero siamo convinti e cerchiamo di rappresentare come questo paese abbia bisogno di fare anche un salto di tipo culturale, vedendo l'impresa come un bene prezioso della società, perché come dicevo prima, dall'impresa deriva il lavoro. Verdanica, io sono d'accordissimo con lei, devo lanciare il GR, viva i disfattisti come lei e in bocca al lupo. Alle 18:07 riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Adesso facciamo la borsa e poi la vicenda che sembra, ripeto, un po' tecnica, ma in realtà è molto delicata, della posizione tedesca nei confronti della Banca Centrale Europea. Allora, oggi tutte le borse positive. Milano in linea, più 1%, Piazza Affari, come a Parigi, mezzo punto di rialzo Francoforte, lo 0,20 invece per Londra, lo 0,60 per l'America, euro a quota 1,3612. In realtà c'entra anche il prossimo tema nel commentare oggi la giornata di borsa, perché la decisione della Corte Costituzionale tedesca di mandare... di spostare il cerino, di passare la patata bollente alla Corte di Giustizia Europea è sembrato un ammorbidimento di quelle che potevano essere posizioni più intransigenti. Paolo Paronetto, Radio Colli, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. La risposta, dicevo, dei mercati è stata positiva. Oggi abbiamo anche un altro dato positivo, lo ricordo, lo spread italiano è sceso a 200 punti praticamente e il rendimento dei BTP a 10 anni è al livello più basso dal 2006. Titoli che ne hanno beneficiato in parte i bancari, però il miglior titolo è Mediolanum, più 4,60, e il secondo è a pari merito con Buzzi Unicem, quindi Mediolanum e Buzzi Unicem. Sì, per quanto riguarda Mediolanum, si tratta in questo caso di una raccomandazione da parte di una banca d'affari, Citigroup, che è in vista dei conti e sul business, sull'andamento della società nel 2014, ha consigliato di comprare i titoli Mediolanum. Per quanto riguarda Buzzi, invece, la reazione positiva del mercato ai dati preliminari sul 2013 annunciati dalla società, e in particolare quello che è piaciuto di più al mercato è la previsione della società di chiudere, appunto, quando verranno comunicati i dati definitivi, il 2013 con un margine operativo lordo ricorrente superiore a quello dell'esercizio precedente. Questa è una previsione che ha sorpreso in positivo il mercato, che ha premiato il titolo con un rialzo del 4,6%. Ancora per quello che riguarda l'Incredit Bene, ancora sull'ipotesi di bad bank, cioè di una banca in cui confluiscono i crediti difficilmente esigibili, quelli incagliati, le sofferenze. Ma principale all'ordine del giorno è questo. Certo, il titolo ha beneficiato anche di quello che dicevi tu prima, cioè dell'abbassamento e dello spread con il Bund, ma il tema principale al di là di questo è proprio quello della bad bank. Se ne parla per molte banche italiane. A recenti indiscrezioni dicevano che Unicredit potesse studiarne una insieme a Intesa e al fondo americano KKR, e oggi si è espresso sul tema l'amministratore delegato Federico Ghizzoni, confermando che il tema è allo studio. Ha detto che la banca ha parecchie idee sull'argomento, non ha però voluto commentare ipotesi specifiche, quindi non ci sono dettagli concreti su quale sarà la decisione della banca. Ma la bad bank poi avrà degli sportelli bad, anche loro, c'è cioè un ingresso, un'entrata più brutta, no? Dei mobili più scrausi, non so, certo, mi chiedo questa bad bank sarà stata peggio. Sì, sarà stata peggio, un bancomat che funziona in bad anche lui, non so, ma... devo stare zitto. Andiamo avanti con i titoli invece. Telecom Italia, la Telecom Media la chiamano alcuni, non è male la battuta, ricavi in ribasso ma debito in linea con le attese. Sì, Telecom ha dato indicazioni su quelli che saranno i conti definitivi 2013 e i ricavi appunto saranno inferiori alle previsioni, ha messo in guardia la società, ma il mercato ha apprezzato il fatto che i margini di redditività, quindi l'EBITDA e soprattutto il debito, saranno effettivamente in linea con quanto previsto. Quindi questi sono i due dati su cui si è concentrato di più il mercato, che di fatto dopo un avvio comunque in altalena, perché questa mattina il titolo ha oscillato più volte attorno alla parità, alla fine ha premiato le quotazioni di Telecom con un più 2,79%. Ecco, tra l'altro, visto che parlavamo di banche, domani c'è il Forex, in cui c'è un convegno importante, anche la tavola rotonda importante organizzata da Radio Corriere Sole 24 Ore con il sondaggio e vari operatori. Forex è nel congresso, chiamiamolo così, degli operatori di borsa e del mondo finanziario. Interverrà anche, come sempre, il governatore della Banca d'Italia Visco, e appunto domani avremo anche modo di sapere come è andato il sondaggio che voi sempre fate tra gli operatori di borsa. Certo. Si terrà quest'anno a Roma e c'è anche una nuova iniziativa, lo dico io, del Sole 24 Ore, curata da voi, che permette di avere le informazioni sulle società quotate in borsa, che verrà lanciata domani, no? L'iniziativa si chiama Lobby 24. Allora, per quello che riguarda invece altri titoli, andiamo e spostiamoci su Mediaset, di nuovo forte, più 3%. Sì, in questo caso sono le parole del vicepresidente Silvio Berlusconi a sostenere il titolo. In particolare Berlusconi ha parlato dell'andamento del mercato pubblicitario, che naturalmente è sempre un po' la questione che è più attesa, più sotto la lente degli operatori di mercato, e ha detto che per quanto riguarda l'inizio del 2014, quindi di fatto il mese di gennaio, si è registrato qualche segnale positivo e dopo diciamo mesi e mesi di cali e soltanto negli ultimi sei mesi un lieve recupero. Anche questa è un'indicazione ovviamente ben accolta dal mercato. Mediaset ha guadagnato il 3,03%. No, stavo sorridendo non per Mediaset, ma perché un ascoltatore dice: beh, posso fare una bad family e così sposto il mutuo e i debiti che ho con le banche. Ha ragione l'ascoltatore, cioè, vabbè, adesso facciamo quello che dobbiamo fare, perché qua ci sono gli stress test che arrivano. Però insomma, sta idea che tu prenda tutti i crediti che difficilmente ti ritorneranno, che o dai già per persi, tu li metti in una bad bank in cui tutti saranno anche più brutti, non è solo più brutta la banca, è anche più brutto chi ci lavora, perché saranno scelti in base a quello, saranno vestiti male, gli sportelli cigoleranno, il bancomat funzionerà male, l'arredamento sarebbe... Allora dice l'ascoltatore, giustamente, io faccio una bad family, e alcuni ci metterebbero anche poco onestamente, e sposto lì in mutuo, e io resto invece, divento una persona virtuosa nei confronti delle banche, del credito, perché tanto ho la bad family. Vabbè, non vorrei creare poi ulteriori conflitti familiari con la bad family. Noi andiamo avanti con il Monte dei Paschi di Siena, che perde l'1,15%. Il peggior titolo bancario, appunto, nonostante l'andamento dello spread, tra l'altro fino a poco prima della fine era proprio il peggior titolo del FTSE MIB, poi ha recuperato chiudendo a meno 1,15%. Questa mattina il Monte ha annunciato che continuerà a non pagare gli interessi previsti per 4 emissioni obbligazionarie preferred, tra cui la famosa emissione fresh fatta per ritardare l'aumento di capitale qualche anno fa, e l'aveva già fatto a settembre. È una cosa che al mercato piace poco, anche se per me MPS è praticamente obbligata, perché di fatto risponde ad alcune delle richieste fatte dall'Unione Europea per dare il via libera al piano di ristrutturazione e rilancio dell'istituto. Comunque oggi l'unica notizia particolare era questa, e gli operatori segnalavano che di fatto il mercato, ogni volta che una banca o una società decide di non pagare questi interessi, di fatto reagisce negativamente, quindi anche oggi ha punito il titolo. Ancora tra i titoli, perde Tozzo oggi il 2%, Saipem -1,70%, Exor -0,70%, migliori e peggiori in assoluto. Si è fermata un po' Bastoggi oggi, sì, ha perso il 35%. -35,4%. Sì, adesso io non ho visto nessuna notizia, poi mi saranno sfuggite, non me le dicono, non siamo in grado di averle, ma ci sono, perché il titolo ha guadagnato un qualcosa come il 200%, adesso vado a memoria. La società stessa ha detto di non essere a conoscenza di motivi che spieghino. La società no, chissà i manager. Bastoggi -35%, gruppo Green Power -7,70%, Bialetti -7,30%, Zucchi -4%, chi guadagna invece in Novatech +13,40%, e ancora Cell Therapeutics +13,18%, Fintel +10,70%, Grandi Viaggi +6,60%. Grazie e buon fine settimana a Paolo Paronetto, Radio Corriere Sole 24 Ore, e chiaramente a tutti i colleghi dell'agenzia di stampa del gruppo Sole 24 Ore. Dai ragazzi, piantiamola con la bad family, perché sta avendo giudizio. Allora, c'è chi nella bad family vuol mettere la suocera e la moglie, ma miseria. Uno vuol mettere solo la moglie, uno vuol fare il bad parlamento, poi c'è chi dice la bad family ci ha già pensato la famiglia Ligresti. La suocera e i cognati voleva mettere nella bad family. Sì, uno dovrebbe adesso, paradossalmente, potrebbe dire alla banca: bene, tu fai la bad bank, io faccio la bad family, quindi il mutuo e tutti i debiti che ho con te li scarico sulla suocera e i cognati. Poi bisogna vedere se la suocera e i cognati sono d'accordo. Detto ciò, è chiaro che, tornando ad essere seri, che questa è l'ipotesi, perché le sofferenze bancarie sono a livelli record, e questo va detto, e quindi tutti i prestiti che si sono incagliati, che poi vanno in sofferenza, cioè che non possono essere più ritornati alla banca, sono a livello record. E ancora è chiaro che questa è una mossa perché stanno per partire gli stress test a livello europeo. Ha aperto la strada come ipotesi Unicredit, ma da quello che capiamo non è l'unica banca che ci sta pensando, non è l'unica banca, diciamo, che vorrebbe andare avanti su questa strada. Comunque adesso ci sono le informazioni sul traffico, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia con Sebastiano Barisoni. C'è chi dice: beh, lei è un bad journalist, va bene, faremo anche questo, però in realtà oggi sul tema delle banche la cosa più importante è quanto deciso dalla Corte Costituzionale tedesca, la Karlsruhe, dopo il processo alla Banca Centrale Europea. Perché? La Corte Costituzionale ha detto che la BCE non è autorizzata a perseguire una propria politica economica, può solo aiutare le politiche economiche dell'Unione, però non ha, da quello che capisco io, bocciato la Banca Centrale Europea. Il tema qual era? È che in Germania hanno fatto ricorso alla Corte Costituzionale contro la possibilità che ha la Banca Centrale Europea in questo momento, con lo strumento OMT, di comprare titoli di Stato di uno Stato in difficoltà, qualora lo spread dovesse schizzare. I tedeschi, questa cosa qui, una parte dell'opinione pubblica tedesca, non la sopporta, perché vorrebbero che la Banca Centrale Europea stesse a fare solo i tassi di interesse, che ormai praticamente sono a zero. Ricorso alla Corte Costituzionale, è arrivata la sentenza, che a mio avviso, se posso permettermi, una sentenza un po' democristiana, o meglio cristiano-democratica, visto che siamo in Germania, un po' la Ponzio Pilato. Però chiedo venia e conferma al corrispondente, a Sole 24 Ore da Francoforte, Alessandro Merli. Buonasera Alessandro. Sì, buonasera. Cioè il dire questa bene, noi non siamo d'accordo, però rinviamo il verdetto sulla legittimità di questo piano di aiuti ai paesi dell'area euro alla Corte Europea di Giustizia, è un po' volersi levare una patata bollente, eh? Beh, la sentenza, come dici tu, è talmente pilatesca che non è nemmeno una sentenza, cioè si sono limitati semplicemente a dire che la competenza era della Corte Europea di Giustizia, e questo è un fatto importante perché è la prima volta nei suoi oltre 60 anni di vita che la Corte Costituzionale tedesca lo fa, come per la prima volta ammettesse che c'è un'istituzione, un'istanza superiore a lei stessa. E comunque che non è poco per una corte tedesca, no, dico, immaginare che non è poco per una corte costituzionale tedesca, immaginare che ci sia qualcuno sopra di te. Ci sono due istituzioni in Germania che non riconoscono che fanno parte dell'Europa. Una è la Corte Costituzionale tedesca, almeno fino ad oggi. L'altro è l'ufficio legale della Bundesbank, che non ha ancora riconosciuto il fatto che nel frattempo è stata creata la Banca Centrale Europea. Veramente? Questi, sai che non la sapevo questa. Cioè l'ufficio legale. L'ufficio legale, spiegamelo un po'. Beh, diciamo in pratica l'ufficio legale della Bundesbank ritiene ancora che la Bundesbank sia la suprema istanza in materia di politica monetaria. Purtroppo non hanno ancora aperto gli occhi alla realtà. Queste due istituzioni si sono messe, diciamo, d'accordo, comunque con la testimonianza della Bundesbank, la Corte tedesca ha oggi pronunciato questa serie di pareri che però non hanno nessun valore giuridico, perché appunto la decisione verrà presa dalla Corte Europea di Giustizia. Naturalmente ci vorranno ancora molti mesi prima che si arrivi a una sentenza da parte della Corte Europea di Giustizia, quindi rimane un'area di incertezza e ovviamente c'è un effetto politico, anche se l'effetto giuridico probabilmente alla fine sarà che la Corte Europea di Giustizia approverà il piano MT. C'è un effetto politico che è quello di aizzare l'opinione pubblica tedesca, e infatti gli euroscettici oggi hanno già detto: vedete, la Corte ci dà ragione, la Banca Centrale Europea illegalmente usa i soldi dei contribuenti per finanziare il debito dei paesi dissoluti. Sì, a me sembra, adesso non vorrei essere troppo così malizioso, però a me sembra che, visto che poi la sentenza della Corte di Giustizia non produrrà nessun effetto, cioè, la Corte Costituzionale tedesca ha detto: beh, non voglio decidere, dai, troppo, rimando tutto quanto alla Corte Europea, e così la palla passa e il tempo si allunga. A me sembra che l'unico vero effetto forse politico sia di ulteriore pressione politica e psicologica su Mario Draghi e sulla Banca Centrale Europea, o no? Beh, assolutamente, su Mario Draghi e sulla Banca Centrale Europea, dicendogli siamo pronti a mettervi dei paletti, ma anche nel dibattito politico tedesco, che poi credo che quello sia quello che interessa veramente alla Corte Costituzionale tedesca. I giudici naturalmente dovrebbero restare fuori dalla politica, ma come abbiamo visto in tanti paesi questo non è sempre il caso. In questo modo, con questa sentenza, non sentenza, però dando chiaramente un proprio parere nettamente sfavorevole, la Corte Costituzionale tedesca non influisce sul risultato finale, o non direttamente, ma comunque influisce sul dibattito politico in Germania in modo abbastanza pesante. Oh, dico una cosa che ci sta scrivendo: attenzione che sotto processo non è andato uno strumento qualunque della politica europea, è andato lo strumento principale con cui Mario Draghi, in quella famosa dichiarazione del 26 luglio 2012, fece capire ai mercati mondiali, agli speculatori mondiali, che se volevano continuare a speculare sul crollo dell'euro avrebbero avuto contro la Banca Centrale Europea, perché lo strumento OMT nasce proprio nel momento in cui anche Draghi fa capire che la BCE sarebbe intervenuta con ogni mezzo a disposizione per salvare i paesi dell'area euro. E lì, non a caso, diciamo da metà 2012, poi in realtà un po' dopo, che si calma, si placa la speculazione contro l'euro, e infatti vediamo lo spread adesso a 200 punti. Possiamo in regia far riascoltare quel passaggio brevissimo ma fondamentale, cioè ha salvato l'euro, l'ha salvato Draghi, sicuramente non i tedeschi. The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Nella vita, delle volte, non serve parlare a lungo, dire tanto per essere efficaci. Ogni tanto quando parlo con i miei colleghi, ma il pezzo è breve. Alessandro Melli, 9 secondi. La Banca Centrale Europea, the ECB, is ready to do whatever it takes to preserve the euro, and believe me, it will be enough. Cioè, fine. E così abbiamo messo fine a tutte le speculazioni contro l'euro. Vedo che però il portavoce di Angela Merkel dice: Berlino conta su un chiarimento veloce dalla Corte Europea. E va bene, se non hanno altri problemi, beati loro. I tedeschi, in realtà, secondo te come andrà a finire, in un minuto? Ma andrà a finire che la Corte si pronuncerà, a quel punto probabilmente la Corte Europea si pronuncerà probabilmente a favore del piano MT, a quel punto sarà ancora più difficile per la Corte tedesca, che già l'ho trovato impossibile adesso, perché tanto è vero che non ha pronunciato una sentenza, dichiararsi contro il piano MT, e il piano MT resterà sul tavolo o nel cassetto, perché diciamo la verità, alla dichiarazione di Draghi, che ha avuto un impatto fortissimo e seguito la sua applicazione pratica, che è questo piano però fino adesso è rimasto nel cassetto, è servito a, diciamo, a sbollire le tensioni sui mercati, tant'è vero che oggi, anche a questo pronunciamento, seppure non formale, della Corte Costituzionale tedesca contro il piano MT, i mercati non hanno reagito affatto. I tassi spagnoli, se non sbaglio, oggi erano a 10 anni ai livelli più bassi del 2006, quindi addirittura prima della crisi finanziaria. Sì, globale. E vale anche per quelli, diciamo, quelli italiani, giusto, 2006. Ecco, esatto. Per cui diciamo che a questo punto l'OMT, l'uso dell'MT è diventato meno probabile. Certo, se fosse stato rimosso dal tavolo, dal cassetto, dalla Corte Costituzionale tedesca, sarebbe stato un problema vero. Vabbè, ma basta non dirglielo ai tedeschi, digli che in effetti adesso la patata va alla Corte di Giustizia e con calma deciderà. L'importante è non dirlo troppo ad alta voce, Alessandro Melli. Comunque, a me sembra una follia che con i problemi che ha l'Europa stiamo qui a ragionare se la Banca Centrale Europea deve salvare stati in difficoltà, cosa che fanno tutte le banche centrali al mondo. Cioè, veramente vuol dire vivere fuori dal mondo, ma mi rendo conto che, diciamo, attorno al Reno la realtà sia un'altra. Poi quest'estate però fatevi un giro anche nell'Europa del Sud e vediamo poi se il problema resta quello. Grazie al corrispondente da Francoforte per Il Sole 24 Ore, Alessandro Melli. Miglior battuta di una settimana delirante in cui gli industriali che sono in difficoltà e vedono la situazione nera vengono definiti disfattisti dal Presidente del Consiglio, che però non lancia misure a favore delle imprese, vedremo per il 19. E mentre continua il ping pong Renzi Letta, dicevo, settimana delirante in cui abbiamo scoperto appunto altri sprechi dei nostri soldi. La miglior battuta sulle bad bank è quella che ha scritto un ascoltatore poco fa: il peggior stress test è entrare in una bad family, e su questo la chiosa è totale. Grazie a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione, a Pietro Lacorte per l'assistenza in regia. Noi ci risentiamo lunedì. Un augurio di buon fine settimana da Sebastiano Barisoni, soprattutto a chi lo passerà lavorando. Radio 24, la passione si sente.